Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Siamo ancora sulla scia del terremoto che ha colpito l'Abruzzo. Avete sentito due giorni fa il procuratore nazionale antimafia Piero Grasso rilanciare anche sull'onda di un'inchiesta fatta da Roberto Saviano l'allarme mafie post ricostruzione, per cercare di capire qualcosa in più e andare oltre questo generico allarme. Abbiamo pensato di fare una chiacchierata con il sostituto procuratore nazionale antimafia Olga Capasso, che presso la Direzione Nazionale Antimafia, appunto la DNA, ha curato anche quest'anno un capitolo dedicato alle infiltrazioni delle mafie in Abruzzo. Buongiorno dottoressa Capasso. Buongiorno a lei. Allora, io vorrei entrare nel concreto, perché altrimenti quando tutto è mafia, poi alla fine nulla è mafia. E allora le chiedo, a suo giudizio, quali sono le fessure attraverso le quali le mafie possono inserirsi o stanno già predisponendo tutto l'apparato per inserirsi, e quindi il rischio che queste fessure diventino poi crepe e un nuovo terremoto, questa volta un terremoto di risorse pubbliche, si parla di circa 12.000 miliardi che finiscono ad ingrassare le casse della mafia. Prego, dottoressa Capasso. Beh, le fessure sono naturalmente diverse. Prima di tutto abbiamo in Abruzzo come fenomeno proprio endemico la corruzione. La corruzione permette naturalmente anche di truccare le gare di appalto, favorirne alcune a differenza di altre. Poi c'è il sistema che in Abruzzo e in Molise è molto diffuso, quello di abbassare l'offerta, il prezzo dell'offerta, addirittura fino al 30%. Allora, se non c'è un controllo di quello che poi viene costruito, è chiaro che per ottenere un ribasso del 30% il materiale è scadente. Ecco, io vorrei fermarla un attimo proprio per andare un po' più nel concreto di queste due fessure che lei ha aperto. Lei ha parlato di un fenomeno corruttivo abbastanza diffuso, del resto sono moltissime le inchieste della magistratura aperta in terra d'Abruzzo, da Pescara a Teramo, da L'Aquila ai paesi anche minori. Ecco, nello specifico quindi, cosa vuol dire che i bandi di gara sono pilotati, sono fatti ad hoc? Può fare qualche esempio? Esempi concreti non ne posso fare, per il fatto che io mi occupo dell'Abruzzo soltanto da un anno e mezzo, sì. Quindi ho una visione limitata nel tempo, sì. Prima di me c'erano altri colleghi, diciamo dal 2007 in poi. Comunque ci sono dei procedimenti a carico di pubblici ufficiali che si sono fatti corrompere. Ho capito. E per esempio un grosso procedimento in cui probabilmente c'erano infiltrazioni della 'Ndrangheta, che non è stata poi processualmente provata, riguarda la costruzione della superstrada per Venafro. E questo procedimento è attualmente in corso, credo sia in corso ancora il primo grado presso la Procura di Isernia. E poi naturalmente. Però siamo nel Molise, sì. Ma lei dice sostanzialmente. Ma sostanzialmente lo stesso tipo di criminalità. Ho capito. È esattamente lo stesso tipo, per esempio in un altro campo, la camorra che fornisce cocaina dalla Campania la porta sia in Abruzzo che in Molise. Gli albanesi che attraverso i turchi portano l'eroina dall'Afghanistan agiscono sulle coste sia abruzzesi che molisane. Ecco, volevo chiederle questo, per quello che è la sua esperienza di circa 2 anni, 1 anno e mezzo come lei ci diceva, presso la DNA con specifico riferimento all'Abruzzo, vi siete già imbattuti in casi di infiltrazioni di imprese riconducibili alle mafie negli appalti pubblici? Dunque, ce n'è uno che si è concluso recentemente, che riguarda la costituzione di una società fatta da personaggi palermitani ad Avezzano, ed è la famosa Alba d'Oro di cui hanno parlato le cronache, che aveva ottenuto dei finanziamenti pubblici per costruire un villaggio turistico, un camping dalla regione Abruzzo, e contemporaneamente si era rimpinguata con il famoso tesoro di Ciancimino, cioè, da certo, una società, la Sirco, che aveva sede a Palermo, sono partiti verso l'Alba d'Oro, prima che la Sirco fosse sequestrata, la bellezza di 1.600.000 euro. Quindi questa Alba d'Oro ovviamente si riempiva le proprie casse con i soldi derivanti da attività illecite di Ciancimino, e li riciclava, li reinvestiva in appalti. Ma poi ci sono anche, e qui ovviamente non posso fare né nomi né cognomi, certo, ci sono delle società sempre riconducibili a personaggi già indagati per mafia, che si costituiscono in Abruzzo e si dedicano al ciclo dei rifiuti. Ho capito, quindi in questo caso sono società legalmente domiciliate in Abruzzo, che questa volta però si dedicano non al ciclo del cemento, ma al ciclo dei rifiuti. Naturalmente, in questo caso è stato un bellissimo lavoro della Guardia di Finanza, perché queste società, naturalmente, i soci, gli amministratori sono tutti dei prestanome, quindi la difficoltà è quella di capire quando queste società, che apparentemente sono costituite da personaggi abruzzesi, in realtà appartengono ad altre persone. Ecco, per quello che riguarda il suo lavoro e i suoi contatti, ovviamente con i magistrati applicati alla Procura della Repubblica dell'Aquila, alla Direzione Distrettuale Antimafia, siete in contatto? Vi sono già dei, come dire, delle... un piano predisposto per evitare le infiltrazioni, oppure in questo momento siete solo alla finestra? Ovviamente sono proprio nella fase iniziale, tant'è che i reati ipotizzati a carico di ignoti sono disastro colposo e omicidio plurimo. Allora, diciamo, allo stato non ci possono essere dei contatti specifici, diciamo, con la più approfonditi, certo. Però ovviamente appena ci fosse il minimo dubbio che uno di questi costruttori avesse qualche legame con la Sicilia o con la Campania, il procuratore ci chiederà notizie. Noi abbiamo una banca dati eccezionale dove c'è di tutto, e gli possiamo dare degli spunti. Ho capito. Delle indicazioni. Ecco, un'altra cosa che lei metteva in evidenza era questi grandi ribassi nelle offerte e nelle gare. Questo come si lega al rischio criminalità? Se uno fa un'offerta al 30% del prezzo d'asta, nessuno solleva dubbi, è chiaro che poi il materiale che impiegherà, la manodopera che impiegherà, sarà di scarso valore, perché deve rientrare pur con tutte le varianti in corso d'opera. Se il prezzo offerto è così basso, è chiaro che da qualche parte certo, deve mettere poi le mani per rimediare la situazione. Ecco, allora io direi di lasciarci in questo modo. Se lei dovesse, come consulente non pagata, per essere chiari, super partes, vista la sua esperienza, dire alla regione Abruzzo, a chi farà gli appalti, le cose da evitare, che cosa direbbe? Una, mi pare di averla capita, ribassi oltre il 30%, che mi sembrano abbastanza, come dire, banditi. L'altro è di la fare la certificazione antimafia, sì, che sia assolutamente scrupolosa. E però le dico, questo anche non basta, perché normalmente le società con criminalità organizzata alle spalle sono gestite da prestanome. Direi anche che ci vorrebbe un controllo sia degli organi amministrativi sia dell'autorità giudiziaria sulla ricostruzione, quando cominceranno i lavori. Quindi adesso, certo, stanno lavorando per capire se ci sono responsabilità per quanto riguarda i crolli. Però non bisogna perdere poi di vista tutte le i bandi di gara che saranno poi effettuati per la ricostruzione. Ecco, un'ultima domanda, ma in queste inchieste che lei ha citato, quelle riconducibili a prestanomi di Cosa Nostra, sia nel campo dei rifiuti che nel campo dell'edilizia, avete riscontrato quei fenomeni corruttivi a cui faceva prima accenno nelle predisposizioni dei bandi di gara comunali, regionali o provinciali, oppure no? No, nei processi che ho citato, come quello dell'Alba d'Oro, non ci sono ipotesi corruttive. Sono state poi determinanti le intercettazioni telefoniche. Certo, in certo. Processi di questo genere, togliere le intercettazioni telefoniche perché ancora non si sa con sicurezza chi è colpevole, è veramente qui penso che il governo dovrebbero un pochino ripensarci. Io ringrazio il sostituto procuratore nazionale Olga Capasso per il suo intervento, dico grazie in regia a Giacomo Spunta e in studio a Laura Faggin. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.